I due letti trovarono posto in quella che per tanto tempo era stata la camera dei gemelli Bonnet e che Sonia e Olga chiamavano ora il salotto spogliatoio. La trovarono una soluzione talmente ideale che fu deciso di non richiuderli più. La loro funzione di letti pieghevoli apparteneva al passato. Finite le molle e le rotelle, sempre visibili sotto lo spesso tappeto da tavolo che li copriva. Dimenticato il loro aspetto ben poco attraente di cassoni rettangolari, ingombranti, inutilizzabili e troppo spesso utilizzati come fortuiti supporti di oggetti che la sera bisognava togliere. Terminate le cigolanti sinfonie che accompagnavano inevitabilmente il loro spiegamento notturno. Aperti e rivestiti di una civettuola tela arancione, ora durante la giornata servivano da divani. La tela arancione era la stessa di cui si erano servite Sonia e Olga per confezionare le tende di una piccola cabina sistemata in un angolo della camera. Dietro quelle tende le donne si spogliavano e su quei divani si sedevano seminude in attesa delle prove. Venuta la notte, i divani ridiventavano letti, letti di adolescenti, benché la finestra restasse aperta. Persistevano tenaci i profumi e gli odori che si lasciavano dietro quelle donne sconosciute, ma erano soprattutto le tende arancioni tirate davanti allo stretto specchio verticale, a eccitare l'immaginazione di Maurice e di Robert. Non si comunicarono mai il loro turbamento. Per dissimularlo, dicevano «Ça di cocotte!» Poi spegnevano le loro lampade. Erano due piccole lampade munite di pinze che si adattavano alle pagine dei libri che leggevano prima di addormentarsi. Avevano delle cappelle come funghi, una rossa, l'altra gialla, lampade per camera da bambini, regalate da Ginette, che a loro servivano per leggere dei libri da uomini prima di piombare in un sonno virginalmente solitario. Fu lì che passarono tutte le loro notti a partire dalla seconda. Cenavano dai genitori e si ritrovavano al primo piano dove Sammy Nussbaum veniva a raggiungerli all'epoca dei grandi ripassi. Indifferenti a quello che si stava preparando sui grandi tavoli, a quello che rivestiva a metà i manichini e a quello che pendeva dagli attaccapanni, attaccati a una lunga asta, attraversavano il laboratorio senza neanche accendere e si piazzavano al piccolo tavolo fuori uso della cucina dove, sotto la luce di una lampada saliscendi, di cui abbassavano al massimo il paralume di opale ondulato, studiavano fino al momento di andare a letto. Con la sua unica casseruola appesa a un chiodo sul muro ridipinto di fresco, il fornello con una sola fiamma che bastava appena far bollire l'acqua di un tè o a fare un caffè, con i libri di latino, greco, inglese e matematica allineati sulla mensola che per tanto tempo aveva sorretto le grosse scatole del sale, dello zucchero, della cicoria e del cacao, la stanza ora assumeva l'aspetto di un austero laboratorio di chimica, l'acquaio quello di una vaschetta sterilizzata. Ma la mattina, quando si svegliavano freschi come bambini, il laboratorio si trasformava in bagno doccia. Ridendo rumorosamente, si aspergevano di acqua fredda, si schizzavano generosamente, stando bene attenti a non dirigere il getto del tubo di gomma verso i loro libri. Prima di uscire, asciugavano il pavimento e riponevano accuratamente spazzolini da denti, dentifricio e asciugamani nella moscaiola che fungeva da armadietto da bagno. Poi riaggiustavano frettolosamente i letti, che tornavano a essere mobili da salotto. Maurice saliva a fare colazione, Robert scendeva a fare colazione, dopodiché se ne andavano insieme al liceo. Sammy li aspettava all'angolo del vicolo cieco e di Rue de la Mar e tutti e tre scendevano fino al liceo Voltaire, a piedi quando faceva bello, con il metrò quando pioveva. Capitava spesso che incontrassero il signor Florian, il quale si dirigeva verso la loro vecchia scuola. Si stupivano un po' di incontrarlo così presto, ma non gli sfiorò mai l'idea che il vecchio maestro barasse con il proprio orario per il solo piacere di vederli andare, allegri e seri, al tempo stesso verso l'inesauribile pozzo al quale si abbeveravano ogni giorno, l'insegnamento superiore laico e repubblicano per il quale li aveva prescelti. Studiando con profitto al liceo Voltaire, Maurice, Robert e Samy prolungavano i sogni pedagogici del signor Florian, che essendo il maggiore della numerosa figliolanza di una madre vedova, in passato si era visto vietato l'accesso all'università. Allora Faceva finta di incontrarli per caso, i suoi uccelli volati via dal nido di Rue Henri Chevreau, che seguiva da lontano e sorvegliava da vicino. A scuola erano bravi, addirittura bravissimi, e non senza merito in quegli anni in cui i liceali avevano a disposizione tutti gli alibi possibili per far passare lezioni e compiti dopo la politica. Era lì la politica, quasi quotidianamente presente in tutte le vie intorno all'immenso liceo. Entrava nelle classi attraverso i vetri chiusi, le grida, gli slogan alternati, ripresi, interrotti dai fischietti della guardia mobile. I frammenti di Internazionale e di Marsigliese coprivano a volte le voci dei professori e rompevano i leggendari silenzi delle aule di studio. La politica era per la strada, nelle ore in cui uscivano, che erano anche quelle dei primi raduni per i grandi cortei, bloccava gli ingressi del metrò, faceva disertare i tavolini davanti ai caffè, abbassare le saracinesche. Se in altri quartieri di Parigi gli adolescenti delle classi superiori facevano politica, al Voltaire, dall'11ª all'ultimo anno, era difficile ignorarla. La chiamavano politica, in realtà era storia di Francia, ma nessuno ancora lo sapeva. Essa si andava scrivendo sotto i loro occhi, risuonava alle loro orecchie, era talmente vistosa e rumorosa che le venivano affibbiati nomi semplici come sfilate, slancio popolare, zuffe, baraonda e gazzarra, a seconda della politica che si faceva o non si faceva. Al Voltaire se ne faceva un po' come da ogni parte, ma meno che da ogni altra parte. Il camelot du roi era raro. Il militante monarchico tra le due guerre. Robert Maurice e Samy si erano azzuffati una volta uscendo di scuola come tutti gli altri, ma non per questo si erano arruolati nei falchi rossi. La storia quotidiana di Francia li disturbava. Se si volevano concentrare su quella del passato, tutte le storie del passato. Il vecchio Florian aveva scelto l'immagine del pozzo. Loro preferivano quella delle sorgenti. Gliele avevano fatte scoprire e da allora ne scendevano felici i vari corsi, si stupivano delle chine vertiginose che le trasformavano in rapide, degli affluenti che venivano a ingrossarle, delle chiuse che le trattenevano e ne regolavano i capricci. La parola greca, deformata, che diventava parola latina e diventerà parola francese, Esopo, Plauto e La Fontaine, gli idi di marzo in Malé e Isaac, e Giulio Cesare con Shakespeare, Galileo e Giulio Verne, Romolo e Mowgli, Perceval e Parsifal. Le stesse parole incise nel granito bretone e in quello di Cornovaglia. Il bambino greco e il bambino bara, l'isola di Pasqua e Karnak, la pallacorda e il tennis, le Ifigenie in Aulide, in Tauride, in greco, in Racine, e il piccolo banco rotto di un ciabattino, un tantino disonesto che nessuno vuol più vedere al mercato di Windsor nel 1603. Quel bankrupt diventato bancarotta per i grandi truffatori disonesti dei tempi moderni, in Goethe, il colonialismo e essere buono. Banania, Catilina e Stravinsky, i tamburi africani e la batteria dell'Hot Club, erano questi gli incontri che facevano ogni giorno da quando avevano avuto in mano le chiavi di quel vasto territorio che chiamano la cultura e che loro chiamavano il liceo. Non erano austeri, giocavano con gli yo-yo, scoppiavano in pazze risate, dicevano parolacce e porcherie, non erano pedanti, non si prendevano sul serio, ma facevano con serietà quello che dovevano fare. Le loro giornate le passavano al liceo, dato che si fermavano anche per pranzo. Tornati in Rue de la Mare, cenavano in famiglia. Al pian terreno, come al secondo piano, i genitori si informavano. «Hai studiato bene oggi?» chiedeva Elia. «A che punto siete di storia?» chiedeva Felix. Le loro risposte erano evasive. Con la testa ancora piena delle scoperte della giornata, a volte tentavano di condividerle, ma diventava sempre più difficile. Allora tacevano e lasciavano parlare i loro padri. I loro padri parlavano del presente, Félix delle poste, Elia della ditta Mercier e naturalmente di politica, della politica di cui si era parlato alle poste e dai fratelli Mercier. Alle poste tutti vedevano l'avvenire in rosso, tranne il capo di Félix che lo vedeva bianco, rosso e blu e che voleva la Francia per i francesi. Dai fratelli Mercier, i colleghi lo vedevano soprattutto nei toni beige, ramati, fulvi e neri delle grandi pelli in cui ritagliavano accessori di gran lusso e guardavano con ironico affetto il padrone che si permetteva il lusso di scendere per la strada a fustigare i faziosi che li disturbavano ben poco, a sostenere rivendicazioni che non erano le loro e a reclamare per loro una libertà di cui personalmente non li aveva mai defraudati. Verremo a sfilare con lei, signor Paul, diceva a Meunier, ma è proprio per farle piacere, vero Lilic? Così Lilic andava, trascinandosi dietro Stepan, ma tutti e due stentavano a seguire il ritmo degli slogan e non erano sicuri di essere al loro posto fra tutti quei nipotini di comunardi che spesso si stupivano del loro accento. Questo era ciò che si raccontava a tavola durante quell'anno. Di sotto Ginette approvava Félix e Josette si annoiava. Di sopra Sonia e Olga si facevano spiegare e Zazà si annoiava. Maurice e Robert ascoltavano, tacevano, salutavano, baciavano e scappavano. Erano sempre da papà e mamma, ma in effetti ormai non c'erano più. Le ragazzine, in compenso, c'erano sempre di più e in particolare dalla mamma. Se Zazà e Josette si annoiavano a tavola, ai corsi integrativi di Rue de la Mare, si scocciavano a morte. Loro non avevano mai avuto un signor Florian che si chinasse sulle loro culle di scolare e ora era una signorina della Croix che faceva lezione. La signorina della Croix non era una scopritrice di vocazioni culturali, dal momento che lei stessa non aveva nessuna inclinazione per la cultura, non vedeva la necessità di fare reclute per ciò che lei considerava incubatrici per fallite. La signorina Della Croix era un esemplare rarissimo di maestra accidentale, era una suo malgrado. Vedova prima delle nozze di un fidanzato caduto sul campo dell'onore e mai sostituito, era diventata funzionaria dell'insegnamento pubblico perché con un diploma e un fisico ingrato non si diventava commesse di negozio, quando anche se ne fosse avuta voglia. Come commessa di negozio avrebbe probabilmente fatto qualche incontro e forse avrebbe perfino trovato il sostituto del solo uomo che le avesse mai detto ti amo. Come maestra in una scuola femminile, la signorina della Croix non aveva mai incontrato nessuno e la sua vita era stata un fallimento che lei attribuiva alla guerra, all'ambiente sociale e al suo diploma. Si annoiava a tenere lezioni noiose che non valicavano mai le frontiere dello stretto programma. Coscienziosa, esigeva dalle sue allieve un'ortografia perfetta delle lezioni imparate impeccabilmente a memoria in storia e geografia e rapidi calcoli mentali. Non era né severa né permissiva, era indifferente e diligente con delle ragazzine che non conosceva. Non aveva voglia di conoscerle e comunque non ne aveva mai il tempo. La signorina della Croix veniva spesso trasferita. Ragion per cui, in quell'anno scolastico 1934-35, mentre Robert e Maurice caracollavano nei grandi spazi aperti dai professori di seconda al Voltaire, Josette e Zazà ristagnavano nella noia elargita dalla signorina della Croix di passaggio in Rue de la Mare. Josette e Zazà si annoiavano dunque a ore fisse, ma appena suonava la campanella liberatrice, correvano verso il laboratorio del primo piano dove si divertivano enormemente. Si divertivano e imparavano molte cose. Contrariamente ai maschi che prendevano possesso dei luoghi solo quando era calata la notte e non vi accadeva più niente, le femmine occupavano in giornata quel territorio dove succedevano tante cose mai evocate la sera a tavola, ma di cui pochissime sfuggivano alla loro curiosità di adolescenti tredicenni, specialmente da quando era stata messa in cantiere La Lune est nue, la luna è nuda. La Lune est nue era una rivista spettacolare messa su con dovizia di mezzi da un concorrente di Tabarin. L'argomento era chiaramente enunciato dal titolo. Abbiamo conquistato la Luna, aveva annunciato Alex il giorno in cui la ditta Maschere era stata prescelta per fare i costumi che sarebbero stati in grado di spogliare artisticamente artisti a cui si chiedeva altresì di saper cantare, parlare e ballare. I meno nudi e le meno nude andavano a provare in viale Chateaubriand, le più nude in Rue de la Mare. Erano quattro stupende fasi della luna, come suggeriva l'iscrizione sotto gli schizzi che Alex aveva tenutamente teso a Olga e a Sonia che loro avevano contemplato arrossendo intensamente. A prima vista, infatti, gli schizzi rappresentavano quattro corpi di donna completamente nudi, ombreggiati a tratti in tutte le gradazioni di grigio, dal più argentato fino all'azzurro più cupo. Sonia e Olga non capirono subito che cosa avrebbero dovuto cucire, né su che cosa cucirlo una volta capito di cosa si trattava. Su delle calzamaglie color carne, molto care, spiegò Alex, dal momento che non si possono cucire dei lustrini sulla loro pelle di ballerine nude, gliene faremo un'altra aderente come un guanto. Saranno vestite dalla testa ai piedi e avranno l'aria di essere ancora più nude. Divertente, no? Divertenti? I lustrini? Ah, Olga e Sonia non avrebbero davvero scelto una parola del genere. Sarà difficile, ma sarà carino, ammise Olga. Soprattutto sarà lungo, fece notare Sonia. Abbiamo 2 mesi, precisò Alex. Per la prima volta non appuntarono gli schizzi al muro. Li misero nella cartella da disegno dove in passato Maurice teneva le sue carte geografiche. Le quattro fasi della Luna si chiamavano Lucienne, Magalie, Albertine e Yvette. Arrivavano tutti i giorni tra le 2 e le 3 del pomeriggio, senza trucco e un po' stanche. Avevano ballato la sera prima e fatto le prove la mattina. Erano ragazze alte, della stessa identica statura. Avevano seni minuti, glutei alti e rotondi, cosce interminabili. Avevano tra i 17 e i 19 anni, visi e risa da bambine e anche un bambino. Che era il bambino di Magalì. Aveva 4 mesi, si chiamava Bruno e non piangeva quasi mai. Chiamavano Olga, signora Olga, Sonia, signora Sonia e Alex, quando passava, signor Grandi. Dai loro borsoni di tela tiravano fuori accappatoi bianchi immacolati, ma indelebilmente color ocra sul rovescio del collo e delle maniche e scarpette di lamè con tacchi che le facevano crescere di 10 centimetri. Dietro la tenda arancione si spogliavano completamente, si infilavano i loro trampoli e indossavano gli accappatoi. Non andavano mai in giro tutte nude in attesa delle prove. Alle 4 e 7 minuti compariva Zazà, quasi sempre con Josette, a volte con Miriam Goldberg. Veniamo ad aiutare, annunciava Zazà con un tono di connivenza clandestina. Nessuno a scuola sapeva che quelle quattro immense ragazze vestite di lana grigia e blu, di cui una portava un piccino in braccio, e che si incontravano spesso nel quartiere, fossero in realtà delle ballerine nude. Nessuno a scuola né nello stabile. Sonia e Olga avevano fatto giurare alle bambine di mantenere il segreto. Loro lo mantenevano e mantenendolo avevano la deliziosa sensazione di essere diventate complici, soprattutto Zazà. Era la prima volta che era complice di sua madre in una cosa di cui non le spiegava chiaramente perché si dovesse mantenere il segreto. Olga non lo spiegava a Zazà perché non riusciva a spiegarlo a se stessa, come non riusciva a spiegarsi con Sonia, la sua sola e vera complice dell'esecuzione di un lavoro che entrambe ritenevano del tutto riprovevole, ma che ciò nonostante eseguivano con una coscienziosità e un genio inventivo da cui dapprima erano sorprese e poi scandalizzate. Inguainate nella loro seconda pelle serica, lattea e trasparente, Lucienne, Magalie, Albertine e Yvette si succedevano davanti al grande specchio del laboratorio. La confezione delle calzemaglie era stata lunga e minuziosa. Essa costituiva, se così può dirsi, la fase numero uno dell'operazione Fasi della Luna. Josette e Zazà l'avevano seguita dopo averne chiesto e ottenuto il permesso. Non vedrai più di quello che vedi nel tuo specchio la mattina, cocchina mia, aveva detto Lucienne, che era chiamata Lulu ed era la più loquace. Il giorno in cui le quattro calzemaglie furono terminate, le ragazze si erano messe davanti allo specchio tenendosi per mano. Sembravano quattro statue di marmo in un giardino. Era molto bello a vedersi e l'arrivo di Alex non aveva scandalizzato nessuno. Noi avremmo ballato così, ma pare che così la gente non ci viene. Allora forza con le maialate, aveva detto quella sera Lulu mentre si rivestivano facendo ridacchiare le altre. Semmai si potrebbe parlare di erotismo, aveva rettificato Alex. Ah, fa lo stesso, aveva insistito Lulu attraverso la tenda arancione. Il breve scambio di battute non era sfuggito né a Zazà né a Josette, che stavano mettendo la mantellina col cappuccio a Bruno, mentre anche Magalì si stava rivestendo. Cosa sono delle maialate? aveva chiesto Olga a Zazà quando tutti se n'erano andati. Salumi, aveva risposto Zazà con tono deciso. Prosciutto, salame, sanguinaccio, roba così. Ma lei e Josette avevano cercato nel vocabolario quell'altra parola, quella di Alex, la sola che avessero veramente ritenuto e che in vita loro non avevano mai sentito. Cercarono sotto H, perché in francese le parole complicate cominciano spesso con H, e alla fine trovarono sotto E una spiegazione che le costrinse a cercare sotto P la definizione di patologico. A questo punto la loro immagine diventava triste e noiosa e il mistero continuava a rimanere altrettanto fitto. Decisero allora che avrebbero capito da sole con l'aiuto di Lulu, di Magalì, di Titin e di Vevette, da cui imparavano tutti i giorni qualcosa di nuovo, attraverso lo smozzicato ma continuo chiacchierio a mezza voce intorno alla cesta della biancheria dove veniva messo Bruno tra i due divani del salotto spogliatoio. Le informazioni fornite da quei sussurri riguardavano immancabilmente quella che stava davanti allo specchio, prigioniera di Olga e di Sonia. Dicevano, per esempio, che Magalì non aveva un marito e Bruno non aveva un papà, che i giorni che avevano le loro cose era un po' scomodo per ballare, ma che erano ben contente perché voleva dire che quel mese non c'erano rimaste. Che Vevetta aveva ancora gli occhi rossi perché si innamorava sempre di chi non doveva. Che la madre di Magalì era una carogna che non si voleva occupare di Bruno, che per avere dei bei seni bisognava spruzzarli tutte le mattine con l'acqua gelida, anche alla loro età. Bisognava cominciare presto, appena cominciano a spuntare. Che Albertine faceva la ballerina per far piacere alla madre, che avrebbe voluto essere prima ballerina all'opera, che Lulu imparava l'inglese nel suo camerino al casinò perché voleva andare in America, a Radio City. Che solo lì si alzano le gambe in cadenza. Che Lulu era una fanatica del ballo, era stata la spaccata a sverginarla ancora prima che avesse l'innamorato, e comunque gli innamorati era roba che non le interessava mica tanto. Lulu. Del resto, quando si vede quel che è successo a Magalì e a Maryse, poi. Ma quanto a questo, se Maryse non si fosse fatta rimestare a 2 mesi con la sonda da coniglia, 2 mesi è il peggio, 3 settimane o 3 mesi e mezzo ci vogliono. Maryse, lei aveva aspettato troppo o non abbastanza, era per quello che era morta, non per la sonda in sé. È sempre quello che c'è di meglio, la sonda da coniglia, o se no, il latte bollente con tanto zafferano o i pediluvi caldissimi, ma proprio all'inizio, 18 giorni. Lei li ha fatti, Magalì, ma non le hanno fatto un bel niente. È così che è arrivato Bruno. Come bambino è un chicco, ma però. E tutto questo per una storia di sesso che non è durata neanche 4 giorni e con un tizio che non gli piacevano neanche le donne. Del resto è per questo che lei non gliel'ha detto a Riccardo, perché per il marmocchio è meglio non avere un padre gay. Però era bello, Riccardo. Dove sono ora? Fanno la stagione, quella d'inverno, al Palladium, a Londra. A Londra? Oh, deve essere contento, Riccardo. Non c'è che gay e compagnia bella a Londra. Non rischia di fare altri Bruno a Londra, Riccardo. Ma come gli assomiglia già Bruno, che Magalì da principio aveva tentato di allattarlo, ma le faceva un seno più grosso dell'altro e lei aveva pianto dandogli il primo poppatoio. A proposito di poppatoio, fra poco è l'ora. Era l'ora del poppatoio, ma era soprattutto l'ora di Zazà e di Josette, la sola che giustificasse la frase dell'inizio. Finalmente potevano aiutare. Si suddividevano i compiti a turno. Quando era Zazà a tirar fuori dal borsone di Magalì il poppatoio già pronto, avvolto in un pannolino pulito, era Josetta a tirar fuori il triangolo di cotone bianco imbottito con un cuore di spugna, poi il barattolo del borotalco, e mentre Zazà faceva scaldare il latte a bagnomaria nell'unica casseruola del laboratorio, Josette cambiava Bruno sul divano letto di Robert. «Asciugagli bene il culetto e il pisellino, cocchina mia», diceva Lulu. Non me lo far screpolare il suo pisellino, vero? Brunino, che ne avrai bisogno per dopo del tuo zuccherino d'orzo amoroso, vero, chicco mio? Bruno sorrideva beato, mentre Josette, servendosi del barattolo come di una saliera gigante, cospargeva di talco il sederino e il sesso dell'innocente angioletto. La pausa a popatoio non interrompeva affatto l'affaccendarsi di Sonia e di Olga, che con i loro camici da lavoro abbottonati fino al collo affrontavano ora la fase numero 2 dell'operazione La Lune est Nue, la fase detta delle maialate, secondo quanto aveva detto quella sera Lulu. La quale consisteva nella presentazione prima, nell'imbastitura poi, dei motivi fatti di paillettes d'argento, di grappoli di perle fini, di goccioline di strass, di puntine di giaietto che dovevano cancellare ombre naturali ma proibite. E l'immaginazione di Alex, probabilmente pungolata dagli autori e dal produttore della Lune est Nue, si era scatenata. Invece di adottare le soluzioni più semplici, tipo slip e reggiseni ricamati, tanto per chiamare le cose con il loro nome, aveva disegnato uccelli notturni in pieno volo, serpenti aggrovigliati, fiori carnivori o farfalle ad ali spiegate che, applicate nel modo e nella posizione opportuna, sottolineavano nella maniera più vistosa, più suggestiva e più equivoca possibile quello che avrebbero dovuto dissimulare. Ogni fase della luna aveva il suo motivo centrale e ogni motivo le sue ramificazioni, lampi temporaleschi, gocce di pioggia, stelle filanti e perfino un raggio di sole per sera d'eclissi. Rimanevano da ricamare le ramificazioni dalle caviglie alla nuca di quelle ragazzone pazienti, le quali si stupivano dei rossori che imporporavano il viso di Olga e di Sonia quando l'una o l'altra mettevano istintivamente una goccia di strass o un neo di giaietto su una certa parte del corpo a cui neanche Alex aveva pensato. Allora, signora Olga, oggi siamo proprio birichine, aveva sentito dire Zazà mentre usciva di cucina provando sul braccio la temperatura del poppatoio di Bruno. Il giorno in cui l'ultimo lustrino fu irrevocabilmente fissato sulla punta violetta del seno di Vevette, tutte e quattro si sciolsero in lacrime. Lulu aprì il suo borsone, ne tirò fuori 3 bottiglie di Veuve Clicquot e una grande scatola di cioccolatini della Marquise de Sévigné. Da parte di noi tutte, signora Olga, signora Sonia, e voi, cocchine, non siamo state tirchie. Abbiamo fatto le cose in grande, ce n'è per tutte. Via, su, si beve alla nostra salute. E grazie. Di tutto questo Maurice e Robert non avevano condiviso niente. Tra quelle scie olezzanti che persistevano, nonostante la finestra aperta, a cui non potevano dare un volto, la più tenace era l'aroma di violetta del borotalco di Bruno. Ci volle del tempo prima che svanisse. Ai tempi dei Bonnet, il primo piano a sinistra si chiamava primo piano a sinistra. Dopo la loro partenza, e nonostante il cartoncino Maschere Bergamaschi appuntato sulla porta dagli abitanti dello stabile, il primo piano a sinistra fu chiamato soltanto Casa Bonnet. Sonia e Olga scendevano in Casa Bonnet, risalivano da Casa Bonnet, i ragazzi dormivano in Casa Bonnet, la signora Loventhal suonava, si era mantenuto il costoso impianto comandato da un'elegante linguetta d'ottone incastrata in una piccola lastra di marmo nero, fonte di frequenti tentazioni per Maurice e Zazà quando passavano. La signora Loventhal suonava dunque a Casa Bonnet, invece di bussare o di entrare senza avvertire, come aveva sempre fatto al secondo piano. Ma per suonare a Casa Bonnet sceglieva sempre il momento in cui non si sarebbe imbattuta in Alex, conosceva i suoi orari. Anche Barschi li conosceva. E dato che li conosceva, contrariamente alla signora Loventhal, lui suonava a Casa Bonnet quando pensava di trovarci Alex. Aveva un'idea in testa. Aveva anche le sue buone ragioni, che non erano sempre interessate o cupide, come si sarebbe potuto pensare. Ai suoi occhi erano addirittura decisamente morali. In Rue d'Aboukir, già da un pezzo lui e Gromov erano stati messi alla porta dalla signorina Anita, la quale gli aveva fatto solo capire che le occasioni non interessavano più la ditta. Da solo, un giorno, Barschi si era spinto in ricognizione in viale Chateaubriand. Si era annunciato il signor Isidore. Ginette l'aveva fatto attendere nel grazioso vestibolo sotto il ritratto di Lucien Guitry davanti all'uovo di Fabergé. Era tornata 3 minuti dopo. Spiacente, ma la signora Victoria è molto occupata. Che cosa desidera? Ridotto al ruolo di spettatore muto di metamorfosi di cui si sentiva confusamente uno dei padri spirituali, Barschi si rattristava. Non è giusto. diceva Gromov e riepilogava lo svolgimento cronologico degli avvenimenti, dal primo giro della cognata di Neuilly nel taxi del principe fino al cartoncino Maschere Bergamaschi sulla porta di casa Bonnet. Entrambi si ritrovavano lungo tutta la catena e Barsky intendeva essere riconosciuto, lui, come un anello di detta catena, questo quanto all'aspetto morale. L'idea poi che gli era venuta era meno complessa. A forza di bighellonare dalle parti dell'ippodromo di Vincennes, lui e Gromov erano diventati amici di certi garzoni di scuderia che la mattina presto allenavano al trotto i cavalli su un gran terreno a Saint-Maurice. Di fronte c'era un caffè e accanto al caffè l'ingresso principale degli studi cinematografici Paramount Francia. Dato che il custode degli studi frequentava il caffè, un giorno Barsky e Gromov si videro invitati a entrare, vale a dire a varcare il gran portone e ad andare in giro per i viali di cemento. Non vi arrischiate sui set, vi fareste buttar fuori, aveva detto il portinaio prima di tornare nel suo elegante padiglioncino come il guardiano di un castello. Guidati dall'istinto, i due si ritrovarono davanti al bar ristorante che dominava una bella vasca circondata da un prato nel cuore di quel magico recinto. Era lì che, senza distinzioni di classe, dai macchinisti ai più celebri attori, tutti quelli che lavoravano nel cinema, come si usa dire, si ritrovavano all'ora dei pasti o durante gli intervalli. Si conoscevano, si riconoscevano o si adottavano senza conoscersi, dal momento che erano tutti cittadini di una stessa piccola città. La prima volta che fecero irruzione nel bar, Barsky e Gromov non si erano sentiti per niente spaesati. Al banco si stava parlando russo. La conversazione si svolgeva tra un uomo e una donna di mezza età, molto ben conservati, sotto gli occhi di una barista indifferente ai loro discorsi che non capiva. È insopportabile stamani. Se continua così, la pianto in asso, lei e le sue borse sotto gli occhi, diceva l'uomo in russo. La donna sospirava, scuotendo il capo. Qualcosa che non va? Chiese suavemente Barsky in russo. Il tono che aveva usato poteva essere confuso con quello di un produttore, di un regista, di uno sceneggiatore, di un attore o magari di una comparsa che propone il proprio aiuto a un membro della sua famiglia professionale. In nessun caso con quello di un visitatore occasionale. Sono 5 anni che gli rompe le scatole tutte le mattine. La signora non si trova abbastanza giovane in proiezione, eppure non è colpa sua se lei ogni giorno è più vecchia di un giorno, disse la donna, prendendo Barsky e Gromov a testimoni dell'evidenza della sua affermazione. Sono tremende, dichiarò Barsky a caso e propose una bevutina di consolazione. A me toglie l'appetito, ma a lei non le impedisce di abbuffarsi e di sbevazzare per quattro, disse l'uomo alzando il bicchiere. Con il mento indicò la persona incriminata, in cui Barsky riconobbe allora il celebre profilo chino su un vassoio di formaggi dall'altra parte della porta a vetri che divideva il bar dal ristorante. Il tempo di inghiottire la saliva, poi Barsky riprese: È una donna difficile, lo sanno tutti, ma che talento ha! Oh! Ha soprattutto un buon truccatore e una buona vestiarista, sbottò a ridere la donna. Oh, anche questo lo sanno tutti, lei per prima. Alla vostra salute, amici, disse Barsky, che finalmente aveva capito con chi aveva a che fare. E per i costumi, altrettanto difficile? Riprese con aria di compatimento. Mai contenta, non va mai bene, sospirò la donna, alzando a sua volta il bicchiere. Beh, comunque è un bel mestiere il nostro, no? Ammise a mo' di conclusione. E a te come ti vanno le cose? Si informò educatamente Fyodor Boulanski. So che si è lavorato insieme, ma non so più per che film. Non è per l'épreuve a Joinville? Suggerì Tania Boulanska. No, rispose con decisione Barsky dopo aver fatto le viste di cercare nella memoria. No, no, non era a Joinville, era da qualche altra parte. Un giovanotto trafelato, con l'aria preoccupata, fece irruzione nel bar. Ha finito di ingozzarsi? Chiese a Tania. Vaglielo a chiedere, rispose Fyodor. Siete già pronti? Quasi, fece il giovane dirigendosi verso il ristorante con l'aria sempre più preoccupata. Bisogna ancora che la controlli, disse Fyodor con voce stanca, scendendo dallo sgabello. E che io la rivesta, sospirò Tania, scendendo dal suo. A presto! Dissero insieme a Barsky e a Gromov. A presto, risposero questi, e il principe Andrei baciò la mano di Tania Bulanska. Com'è che si chiamano, a proposito? Ho completamente dimenticato i loro nomi, disse Barsky alla barista dopo che se ne furono andati. Che diamine, sono Fefe, Tatabubù, disse lei come se fosse ovvio. E voi com'è che vi chiamate? Che diamine, Isidor, rispose Barsky sullo stesso tono. Buon lavoro, signora. Seguitò rivolgendosi alla celebre attrice che usciva in tromba dal ristorante seguita dal giovanotto, ora sorridente e disteso. Grazie, grazie. A fra poco, Adrien. Si sentì nel cigolio della porta che il giovanotto apriva davanti alla diva. Barsky e Gromov ripresero da bere. A che gioco stai giocando? Mormorò a bassa voce Gromov in russo. A divertirmi, rispose Barsky. Quanto le dobbiamo, Adrien? Adrien spinse gli scontrini davanti a Barsky, il quale lasciò una congrua mancia. Oh, grazie, signor Isidora, domani! Mormorò Adrien, sorridendo affabile. Mentre si stavano dirigendo verso il taxi di Gromov, un piccoletto rosso di pelo che sbucava di corsa dagli studi chiese se poteva dividere il taxi almeno fino a Parigi. Volentieri! Fece Barsky sedendosi dietro con lui. Autista, faccia scendere il signore al castello di Vincennes, ordinò a Gromov. Ai suoi ordini, principe, rispose Gromov in francese. Sempre ai tuoi ordini, coglione, ripeté in russo. Tutto bene? Chiese Barsky al piccoletto dopo un momento di imbarazzo. Ah, andrebbe meglio se non fosse già mezzogiorno, se non fossimo a casa del diavolo e il mio camioncino non fosse guasto, perché per trovare una vergine della Guadalupe prima delle 4 nei dintorni di Joinville-le-Pont, puoi sempre correre, una vergine della Guadalupe che neanche si vedrà nella scenografia tra nappe e fronzoli che ti hanno appiccicato dappertutto. Già che è difficile riconoscere gli attori in tutto quel casino, se solo me l'avessero detto ieri. Ah, è sempre la stessa cosa. Tutto all'ultimo momento. Eppure, di vergini e di santi c'è pieno nel magazzino degli attrezzi di Sant'Anne, di vergini nere di Bernadette Soubirous, di Thérèse Delisieux, di Giovanne d'Arco, ma la Madonna della Guadalupe non ce l'ho e se non la trovo, stavolta ci sarà da star freschi. Era sinceramente disperato. Bisognerebbe provare alle pulci, suggerì Barsky, ma quelle di Clignancourt, da Nussbaum, lo conosce? Io. Vado sempre a Saint-Ouen, rispose il rosso. Proviamo da Nussbaum, disse Barsky. Autista, a Clignancourt, prego. Pajalsta, mugolò Gromov. Proviamo, acconsentì il rosso, ma pago io tutta la corsa, eh? Per la produzione gli costerà salata la loro pulzella delle isole, se si trova. La trovarono. Non da Nussbaum, ma da Nussbaum. Manolo si ricordò che ne aveva vista circolare una sul mercato 5 o 6 mesi prima. Li portò dalla vecchia Duprat. La vecchia Duprat si ricordava benissimo della Vergine della Guadalupe che aveva trovato eccessivamente cara. Doveva averla comprata a Loeb. Loeb l'aveva effettivamente comprata e l'aveva subito rivenduta a un cliente abituale che faceva collezione di oggetti di culto. Loeb consultò un quaderno che teneva in una borsa da esattore della Banca di Francia e trovò l'indirizzo del suo collezionista. Lo posso chiamare e dirgli che non siete dei ladri se volete. Loeb, Barsky, Rosso e Gromov andarono tutti e quattro al caffè. Loeb chiamò dal banco. Vi aspetta, è un fanatico del cinema. Alle 14:30 Barsky e il Rosso suonavano alla porta del signor Di Bello in Quai Voltaire. Alle 14:40 il signor Di Bello consegnava la sua Vergine della Guadalupe in cambio di una ricevuta firmata Pierrot Mérange al redattore che gli garantiva la restituzione della statua intatta 2 giorni dopo. Gli sarebbe piaciuto precisare che non era originaria delle isole come si poteva credere, ma era una storia troppo lunga. Isidore e Pierrot erano già per le scale. Alle 15:35 il taxi del principe si fermava per la seconda volta nella giornata davanti agli studi di Saint-Maurice. La piccola vergine fiorita era puntuale. Barsky era l'uomo del giorno. Durante quella caccia al tesoro che prima aveva preso come un divertimento destinato soprattutto a divertire Gromov, Barsky aveva sentito crescere in Pierrot un'eccitazione appassionata che fino a quel momento aveva incontrato solo tra i giocatori di poker e gli scommettitori dei campi da corsa. Ne era stato contagiato, l'aveva riconosciuta e se ne stupiva, si stupiva che all'occorrenza potesse essere anche una compagna di lavoro. Gliel'ho trovata grazie al mio amico Isidor, la sua Madonnina esotica, signore, aveva detto Pierrot, presentando Barsky al regista che si rallegrava con il suo redattore. Ciò accadeva sul set A. Fefè e Tata Bubù si avvicinarono per rallegrarsi in russo e la diva gli disse «Grazie, grazie!» da lontano. Barsky riprese il suo solito posto accanto a Gromov e per un po' procedettero in silenzio attraverso il Bois de Vincennes. «Ci siamo proprio divertiti, eh? Che ne dici, Andrei?» «Sei come uno che gioca al casino per la prima volta e vince. Non ci si deve tornare», consigliò Gromov. Barsky non rispose. «Tornarci?» Non pensava ad altro. Tornarci prima che gli altri l'avessero dimenticato. Quindi ci tornò. Senza Gromov, solo per il piacere di sentire Adrien dirgli «Buongiorno, signor Isidore!» e Pierrot Mérange «Salve, amico!» Figura ormai familiare. Parlavano davanti a lui, al bar e lungo i viali di cemento. Nessuno si chiedeva che cosa facesse lì. Ciascuno credeva ricoprisse un incarico ufficiale in una produzione diversa dalla sua. Dato che il miracolo della Vergine della Guadalupa non si ripeteva, Barsky aveva aspettato. E fu chiacchierando con Tania Bulanska, la quale si lamentava dei bottoni cuciti male su un costume consegnato quella mattina, che gli era venuto un lampo. «Ah, la gente oggi non sa più lavorare», aveva commentato brontolando la vestiarista. «Beh, dipende da chi. Io conosco gente che sa ancora lavorare», aveva detto Barsky. «Faresti bene a mandarcela, perché per il prossimo film, quelli là, noi non li vogliamo più». Il noi di Tania Bulanska aveva qualcosa di regale che preannunciava una decisione irrevocabile. «Vedrò quel che posso fare», aveva detto Barsky. Non aveva cercato di sapere chi fossero quelli là che non volevano più. Gli bastava sapere che non li volevano più. «E che cos'è il prossimo film?» chiese con aria volutamente indifferente. «Oh, questo non lo so ancora. Preghiamo il cielo che ci sia un prossimo film, chi mai può dirlo?» E Tania aveva attaccato con le prime battute di una vecchia canzone russa, le cui parole pressa poco dicevano: «Come l'uccello sul ramo, io vado errando secondo il vento». Quel disincantato fatalismo aveva scosso Barsky. Ebbe bruscamente la desolata visione di quel luogo disertato da gente che lui conosceva e che lo conosceva, e che presto sarebbe stato ripopolato da sconosciuti quali non avrebbero vissuto la sua trionfale giornata. Si disse che bisognava far presto se voleva essere colui che avrebbe portato il cinema in Rue de la Mar prima che il cinema scoprisse il viale Chateaubriand. Ed era questo che voleva dire ad Alex Grandi. Capitava a proposito, Alex aveva appunto rotto definitivamente i ponti con Maschere e Bergamaschi.